Contenti, nervi non passati contro corpi contundenti, pensieri che non fa male, la tua realtà è distorta. Deep set, grazie al sistema e la memoria è corrotta. Posso mi trasfare, l'organismo si rivolta. Più solitario che sopporta, che ascolta, faccio rap industriale, porto rap porta a porta. Aria di contagio, imminente infezione. Pensavate fosse calma, piatta l'occhio del ciclone. Potenza di sterone, al neurone cortisone. Cresciuto con i miti dei neri di New York City. Propongo rap, test, under mix, no freaky. Mixtape. Cambia la questione, qui la storia si fa seria. La regione, la Liguria, uomo arrivo da Imperia. Cambia la questione, qui la storia si fa seria. La regione, la Liguria, uomo arrivo da Imperia. Qualcosa che avesse un significato diverso, almeno per quel per le mie voglie. Eri dentro l'azione. Per spingere pesante, l'uomo non lo vedi e ti colpisco col montante. Flow affascinante, qui seduta stante, come se fosse il trance, invece quel ponente. Vendiamo molti beat come stupefacente. Io faccio rap e tu liscio pesante. Non vedo un altro MC perché è latitante. Frankie. È 10 anni che lo faccio e non mostro vergogna. Vado alle gemme anche dentro a una fogna. Arrivo col sorriso con in cuore la carogna. Più di una volta m'hanno messo la gogna. Voglio il tornaconto di quello che ho dato. Ascolta il risultato, beh, sono ritornato. Gioro spruzzoni, noi tornavi sul tracciato. Uomo sei tranquillo, non è zuppa e fa bagnato. Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Cambia la questione, qui la storia si fa seria. La regione, la Liguria, uomo arrivo da Imperia.